greatest of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Well, I think we all have to take responsibility for our actions and our words. Recentemente ospite in Italia, questa è la voce di Nancy Pelosi, e sull'orlo di una piccola crisi di nervi, sull'orlo delle lacrime, tra poco scoppierà in lacrime, parlando peraltro di un tema così un po' trasversale, di un'aria che tira, di un'atmosfera che ha percepito e che vuole comunicare agli americani. Sta dicendo che è molto preoccupata, per il linguaggio che poco a poco si sta impadronendo, non della solita politica italiana, delle liti, degli schiamazzi e delle male parole, ma di quella americana, che invece in questo senso è sempre stata molto più attenta, più politicamente corretta, più rispettosa di un codice e di un canone. Ma non è così, e Nancy, prima di cominciare un po' a singhiozzare in modo un po' teatrale francamente, dice che rivede un po' i suoi anni 70, quelli dello scontro veramente violento, della retorica che prendeva la mano agli uomini politici, e dice: mi fa paura pensare che stiamo piombando in un clima politico in cui la violenza poco alla volta assuma il controllo, e quindi chiedo ai miei colleghi di controllare estremamente il loro modo di esprimersi. E quindi non so se è questione di Accademia della Crusca, è questione, come per esempio invece operativamente sta accadendo, di una nuova regola, di provvedimenti che sono stati emessi dall'apposita commissione, gli americani hanno una commissione per tutto, per riguardo al linguaggio utilizzabile nelle camere, allorché i politici rappresentativi d'America si riuniscono. Ma questa inquietudine è un fatto strisciante ma percepibile e assai particolare, utile a contraddistinguere l'America complicata di questo momento, in cui il clash, lo scontro politico sta per esplodere, e la sensazione è che sarà virulento, forse qualcosa che non abbiamo mai visto prima, ma ora sono semplicemente in atto i posizionamenti per cominciare a prendere le misure al nemico. Un nemico giurato di Nancy Pelosi si chiama Rush Limbaugh, è uno dei più famosi, forse il più famoso conduttore radiofonico d'America. Il suo show della mattina ha milioni e milioni di ascoltatori. Lui è un conservatore durissimo, è un provocatore molto tagliente. Naturalmente non si poteva far sfuggire un'occasione del genere. Hear this next soundbite, ladies and gentlemen. Nancy Pelosi, in what can only be described as a literal outrage, the woman who started much of the current crisis. Certo, sentire come arrota le parole, dire started, beh, adesso ci alleneremo anche noi, così faremo anche noi milioni di ascoltatori. Ma questo è Rush, che ha messo nel mirino Nancy Pelosi e sta dicendo agli americani: ma non datele retta a lei, alle sue lacrimucce. E poi se piange, sappiate che è un falso assoluto, sono lacrime di clown, le ha detto, veramente molto cavalleresco però anche piuttosto spiritoso. Dice: sono lacrime di clown, perché con tutto il botulino che ha in faccia, piangere non se ne parla. Primo piano. The best way to responsibly advance our security. E l'oggetto del contendere è lui. Nessuno mi toglie dalla testa che ci sia un ritorno di fiamma dell'aggressività nei confronti di Barack Obama. In termini politici forse, in termini razziali nessuno ve lo confermerà mai, ma un'inquietudine c'è e una connessione possibile con l'innalzarsi del livello del linguaggio potrebbe anche essere ipotizzata. Per ora Barack Obama, nonostante Jimmy Carter abbia tirato un grosso sasso in piccionaia nella questione della razza americana, non ne vuol sapere, va dritto per la sua strada, ha questioni serie di cui occuparsi questa settimana. Ormai abbiamo capito che c'è un po' un ritmo alternato, questioni interne, questioni internazionali. Questa settimana Obama e i suoi hanno lavorato prevalentemente sullo scenario internazionale. Le notizie di rilievo sono fondamentalmente due. Una riguarda l'Afghanistan, che non deve essere un nuovo Vietnam e non lo sarà, e queste sono voci ufficiali che escono da Pennsylvania Avenue, comunque i bagni di sangue ripetuti, le prospettive dei rinforzi chiesti in modo sempre più intenso dai capi della missione in Afghanistan, come dire, mettono la questione al centro della scrivania del presidente. Il generale Stanley McChrystal, che è il capo delle operazioni, ha presentato un rapporto top secret dove si fanno, sostengono i ben informati, dei numeri precisi. In realtà McChrystal vorrebbe una escalation violenta del numero di truppe americane presenti in Afghanistan fino ad arrivare ai 100.000 uomini, quindi uno stanziamento di truppe, uno stanziamento di un esercito con tutto ciò che comporta, il pericolo di perdite, i costi spaventosi che si rimetterebbe nel solco delle spedizioni medio orientali di questo inizio di XXI secolo e anziché seguire invece quella tendenza, quella tensione alla smobilitazione di cui Obama sembrava essere l'interprete, seppure seguendo una agenda ben precisa, una escalation sulla quale si stanno creando grandi divisioni nella amministrazione. La Casa Bianca e il Pentagono continuano ad andare con i piedi di piombo, anche perché la situazione politica a Kabul non è il massimo della limpidezza. L'ombra dei brogli, secondo il capo del Pentagono Robert Gates, complica innegabilmente il compito degli americani. È davvero affidabile il governo che va a controllare la nuova Kabul? L'instabilità politica si accompagna anche a quello che i talebani stanno mettendo in scena, e lo sappiamo purtroppo molto chiaramente anche noi in Italia. Esiste quindi questa possibilità che che l'Afghanistan diventi un Vietnam, ma come ha detto lo stesso Barack Obama, voglio assoluta chiarezza sulla strategia. È molto prematuro, ha aggiunto il vicepresidente Joe Biden, pensare, non solo parlare, ma anche solo pensare a un serio rinforzo del contingente americano sulle cifre richieste da McChrystal. Secondo tema sulla scrivania, ma direi ormai già nella biblioteca alle spalle di Barack Obama, perché è stato risolto con un intervento molto deciso, molto reciso, che ha chiuso la questione in una chiave veramente sbrigativa. È il controverso scudo antimissile che risale all'era Bush, basato su una base radar che doveva essere nella Repubblica Ceca, e intercettori a lungo raggio in Polonia. Il piano era fonte di attrito, come ricorderete, tra Washington e Mosca, ma ora il presidente lo ha liquidato, lo ha archiviato, ha annunciato un nuovo approccio per lo scudo basato sul dislocamento nel 2011 di navi americane nel Mediterraneo e nel Mare del Nord, navi dotate di potenti sensori, e poi nel 2015 si attende l'installazione di una versione più sofisticata di missili su basi terrestri in diversi paesi, compresi di nuovo la Polonia alla Repubblica Ceca, ma si parla di 6 anni da oggi. Il nuovo piano, suggerito dai progressi fatti dall'Iran su missili a corto e medio raggio, mentre la Repubblica Islamica non avrebbe dimostrato di essere in grado di produrre missili a lungo raggio, e soprattutto dai progressi della tecnologia americana nel campo dei sensori e degli intercettori. Queste sono state le attività della Casa Bianca. Adesso i coniugi Obama sembrano avere intenzione di prendersi un weekend di relax. Noi nella seconda parte di Buongiorno America, come ormai tradizione consolidata da ben 2 settimane, vi daremo alcune indicazioni di possibili, appunto, consumi, per carità, consumi intelligenti, consumi culturali provenienti per l'appunto dall'America. Il primo è un dischetto tutt'altro che male, prodotto e presentato con il titolo The Blueprint 3 dal rapper dei rapper, il businessman dei rapper, insomma quello che si è sposato Beyoncé e che ha fatto questo prodottino qui, ascoltate. History without a pen, no ID on the track, let the story begin. This is anti-auto-tune, death of the ringtone. This ain't for iTunes, this ain't for sing-alongs. This is Sinatra at the opera, bring a blonde. Preferably with a fat ass who can sing a song. Wrong, this ain't politically correct. This might offend my political connects. My raps don't have melodies. This should make jackets want go and commit felonies. Get your chain took in. I may do it myself, I'm so Brooklyn. I know we facing a recession, but the music y'all making gon' make it the Great Depression. Or your lack of aggression. Pull your skirt back down, throw a set, man. Yeah, this just violent. This is death for auto-tune, moment of silence. America. What I'm about to tell you, it involves something very large. Everyone in this country is a victim of corporate crime by the time they finish breakfast. Yes. Things are going on I don't approve of. I mean, I feel real bad about that. E questo è il trailer del film della settimana, quello più atteso e più presentato dai quotidiani americani che stanno uscendo, che sono appena usciti nelle edicole del grande paese. Si chiama The Informant, si è visto peraltro anche a Venezia, la recente mostra del cinema, e aderisce a una dichiarazione interessante fatta da uno dei direttori del Festival di Toronto, che è in scena in questi giorni, si chiama Tom Powers, lui, e ha detto: l'America in effetti sta facendo l'esame di coscienza in tanti modi diversi, e il cinema è uno di questi. Non a caso anche The Informant, che è firmato da Steven Soderbergh e che dovrebbe uscire in questi giorni anche sugli schermi italiani, è un film di sarcasmo dedicato agli scenari sociali dell'America di oggi, in particolare al mondo delle corporation, interpretato da Matt Damon, riporta Soderbergh, anche se in chiave piuttosto leggera, vicino a un impegno, un po' quello dei suoi primi film. Poi si è sparato la serie di Ocean, no? Ha cercato più il box office. La teoria un po' sottesa al film, che va un po' su e giù anche nella sua qualità, è che le multinazionali saranno sicuramente il demonio nel presente contemporaneo, ma che a forza, insomma, di educare la gente secondo certe logiche, oggi anche tra i molti uomini della strada non c'è di gran meglio da trovare. Per esempio questo Matt Damon, che a tutti i costi vuole essere un informatore, ma finisce per essere soprattutto un terribile narcisista, un terribile egocentrico. Oh, non so se prima ve l'ho detto, il disco The Blueprint che vi abbiamo presentato, l'uscita più interessante della settimana in America, è di Jay-Z, naturalmente rapper dei rapper per la scena dell'hip hop americano. Le riviste, grandi riviste americane, grandi settimanali, sono in edicola con delle copertine molto diverse. Newsweek punta sul caso di ammazzare la nonna, cioè in copertina la foto di una spina staccata vicino a un lettino di ospedale. La sanità americana, sapete, è l'oggetto del contendere nella America politica di oggi, e c'è chi, un nome per tutti, Sarah Palin, se n'è uscita anche in modo assai provocatorio con la teoria che eutanasie così non troppo autorizzate potrebbero essere parte di un delirante piano, un criminale piano di revisione della sanità americana. Naturalmente è una provocazione, ma dà il segno di quanto si sia pronti a litigare su un argomento centrale come la riforma della sanità. Anche Time è su questa lunghezza d'onda, però mette in copertina un protagonista di queste provocazioni, nella fattispecie Glenn Beck. Glenn Beck è il nuovo super cattivo di Fox News. Fox News è la televisione conservatrice, la televisione di Rupert Murdoch, che fa guerra aperta a Barack Obama, per esempio. Non manda in onda i suoi discorsi, e Obama si vendica, non va ospite a Fox News. E poi soprattutto ha una, come dire, una punta di diamante, un provocatore dei provocatori in questo Glenn Beck, che è uno che attacca ad alzo zero, tant'è vero che in copertina lo vediamo effigiato con il suo bel faccione e la linguaccia di fuori. Libri ve ne voglio citare due. Prima di tutto voglio citare la solita polemica col solito Salinger, che ormai ha un'età formidabile, siamo sicuramente ben oltre i 90, ha vinto un'altra causa contro un altro scrittore che si è incaponito a scrivere un altro libro tratto dal giovane Holden. Scrittori, non scrivete libri ispirati apertamente al giovane Holden, perché Salinger vi fa causa, vince e vi toglie, non so, l'appartamento, la macchina, qualche cosa. È successo di nuovo a uno scrittore svedese che aveva scritto 60 anni dopo Come si esce dalla vena, insomma, questo è il titolo ispirato apertamente al Catcher in the Rye, al giovane Holden di Salinger, che ha trovato un giudice in California che gli ha dato ancora una volta ragione. Poi c'è un libro italiano che vi segnalo, esce da Rubbettino, ha uno strano titolo, Stati Uniti col punto di domanda. In realtà si tratta, come recita il sottotitolo, di un confronto Italia-America su tante questioni sociali, istituzionali, economiche, politiche. Vediamo, ne leggo giusto due righe tratte dall'apertura del capitolo più interessante, quello sulla meritocrazia. C'è scritto: negli ultimi 30 anni si è scavato un solco tra la società italiana e quella americana in quello che è un terreno fondamentale per l'equilibrio equilibrato sviluppo di ogni sistema economico e sociale, il merito. Ho già rilevato che i paesi avanzati vivono nella e della società della conoscenza. Sembra invece che in Italia la società delle conoscenze tenda a prevalere ampiamente su quella della conoscenza. Il tutto a firma di Joseph La Palombara, un pezzo 90, insomma, della scienza politica, preside della facoltà di scienza politica a Yale, e con lui ha collaborato Luigi Tivelli, consigliere parlamentare della Camera dei Deputati. Questa canzone ci piace un sacco, è quella di Eddie Vedder, l'abbiamo fatta sentire un sacco di volte, si chiama Guaranteed ed è tratta dal film Into the Wild, la bellissima storia del ragazzino che si perde male in Alaska, tratto da un libro firmato da John Krakauer, intitolato Nelle terre estreme, disponibile anche in Italia. Ora questo John Krakauer, che è un esploratore, un ricercatore soprattutto di storie forti, ne ha scritta un'altra, è uscito in America per ora questo libro, ma ve lo segnaliamo con piacere. Si chiama Where Men Win Glory, dove gli uomini vincono, si aggiudicano la gloria, ma il sottotitolo spiega di che si tratta: l'Odissea di Pat Tillman. Chi è Pat Tillman? È un personaggio estremo, sintomo di una polarizzazione, di una inquietudine americana e del bisogno della ricerca continua di eroi che l'America produce per alimentarsi anche attraverso di essi. Tillman è stato un grande campione dello sport universitario americano, era un quarterback famosissimo, vincitore dell'Heisman Trophy, il più famoso premio, il più famoso riconoscimento per il football americano a livello universitario. Si è aggiudicato un contratto multimiliardario per andare a giocare tra i professionisti, però invece ha scelto di andare a servire la patria in Medio Oriente subito dopo l'11 settembre. Il 22 aprile 2004 è rimasto ucciso al fronte. A lungo è circolata la storia che Tillman sia rimasto ucciso in una impresa eroica. Poi, poco alla volta, è emersa la verità. Quella versione dei fatti era una invenzione voluta dai militari e forse addirittura pilotata dalla Casa Bianca. In realtà Pat Tillman era rimasto ucciso da fuoco amico, ovvero in una sfortunata missione, dalle fucilate dei suoi compagni. John Krakauer ricostruisce la storia, la parabola, la vicenda incredibile, a tratti commovente, di questo eroe americano particolare, perché in un certo senso a lungo sulla strada dell'eroismo, ma poi alla fine diventato eroe per caso. E vi ripeto ancora i due titoli, quindi Stati Uniti, Italia e USA a confronto, Joseph La Palombara, Luigi Tivelli, Rubettino, e invece la biografia di Pat Tillman si chiama Where Men Win Glory, John Krakauer, è un libro Doubleday, lo potete trovare su qualsiasi venditore di libri online, e finisce qui la settimana di Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Antonella Migliaccio, in regia a Roma Valerio Occhetti, a Milano Fabio Cantadori, la mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook in funzione, anzi piuttosto effervescente in questi giorni, è redazione Jefferson 3, porta il nome del vecchio programma, la replica a 12:10, l'appuntamento lunedì attorno all'1:30 qui su Radio 24. Buon weekend a tutti, state bene.